componimento 108° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Avventuroso più d'altro terreno, ov amor vidi già fermar le piante, ver me volgendo quelle luci sante che fanno intorno a sé l'aere sereno, prima poria per tempo venir meno un'imagine salda di diamante, che l'atto dolce non mi stia davante, del qual ho la memoria e il cor sì pieno. Né tante volte ti vedrò già mai chi non m'inchini a ricercar de l'orme che l bel pie fece in quel cortese giro. Ma se n cor valoroso amor non dorme, prega, sennuccio mio, quando l vedrai, di qualche lagrimetta o d'un sospiro. Fine del componimento.